Meta. Postilla con excusatio non petita e menda. Mi fronza nella testa, inizia in verso. Ma è la svista lo sbaglio, l'accidente che depista lo sbadiglio. Dopo l'attimo infedele dell'abbaglio, quel che caglia, l'incaglio, l'appiglio o lo sbaraglio, lo stupro e l'indennizzo. Allor diverbio affanno e mancamento. È la parola che mi manca, il penetrante, il mite, il vento, lo sconforto mi sconsola. Però accrescendo lo scempio, sconciam a vento in un deraglio a stame e in morte mi produco. Per l'amico in clausola pasticcio nello sfondo buio della parola, secreta sulla punta della lingua, qual garro la pastiglia che ingollo e cito male, asfissio, erro l'indirizzo, mentre rotola la R a precipizio, verso lo sfondone o nel capriccio, quando appoggio transumanar in bilico di nasca, e invece è trasumanar, significar per verba non si poria. Ecco l'inciampo, l'aggriccio, la poesia.